piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. L'amore ci fa paziente. Tante volte perdiamo la pazienza. Anche io le chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri. Eh sì, siamo grati a Papa Francesco, ci ha dato uno stupendo spunto per iniziare l'anno 2020, l'inizio del decennio ruggente, con il suo gesto, un gesto che ha dato un cattivo esempio. Beh sì, certo, oggi guardatevi i titoli dei giornali, anche il Papa si incazza, è chiaro. Il Papa, lo sapete tutti, per me è l'argomento del giorno naturalmente, passava in mezzo la folla che si apriva a lui come le acque del Mar Rosso, le mani dei fedeli si protendevano per toccare il pontefice e ottenerne grazia infinita, indulgenza perenne. C'era soltanto una piccola transenna a separare il vicario di Gesù e la folla, alle sue spalle solo un numarel della sua scorta con un cappottino nero, quindi nessuna tenuta antisommossa, e un paio di preti così che ci stanno sempre dietro. A un certo punto le folle tendono le mani per toccare il Papa. Si vede in rapida sequenza una signora dai tratti orientali che si fa il segno della croce mentre il Papa sta arrivando. Alla sua destra un prete umarel che riprende tutto con lo smartphone, alla sua sinistra un'altra signora con la permanentina ricciolina che riprende tutto con lo smartphone. Verrebbe da pensare, alla luce di quello che poi accadde, che tutti sapete, che già ci fosse una sorta di predisposizione. Questo singolare terzetto prete con due donne, una caucasica e un'asiatica, si erano lì appostati. La donna che dovette compiere l'effrazione, nota a tutti, si fa il segno della croce per darsi forza, per darsi coraggio, perché sa che il suo sarà un gesto epico. Quando il Papa si trova un dipresso da questa signora, lei sporge la manina, richiama la sua attenzione, dice delle frasi in una sorta di cino inglese che non si capisce bene. L'abbiamo sentite più volte assieme al bambino Cavia, che oggi è un adolescente prodigio e quindi, conoscendo il cinese e perfettamente l'inglese, ha provato a risentire e risentire quella frase. Ci potrebbe essere il barlume di una richiesta d'aiuto, devo dirti qualcosa. Potrebbe essere anche balugidata la parola money, quindi denaro, forse aveva bisogno di denaro, chiedeva aiuto, non lo sapremmo mai, perché su questa donna non si sa nulla, la sua identità è incerta, quello che le disse nessuno ha voluto rivelarlo, forse il quarto segreto di Fatima, il quinto segreto di Fatima, o forse per delle cose che il Papa doveva sentire. Lo prende per la giubba papale e lo tira a sé, lo strattona. Il Papa ha un vacillamento. Il Papa a un certo punto si trova la mano imprigionata dalle mani della signora asiatica, che continua a parlare disperata, lo tiene a sé. Il Papa ha la sciatica, il Papa è vacillante, il Papa è un po' claudicante, questo è un dato di fatto, è un essere umano anche lui. A un certo punto capisce che la presa della donna è ferrea, non potrà mai liberarsi, quindi strattona la donna, si allontana. La donna non molla la presa, con le sue unghiettine ben infilate nella tonaca papale. A un certo punto il Papa ha un gesto disperato, con la mano sinistra la schiaffeggia, la colpisce, la percuote più volte su quelle manine e a un certo punto riesce a divincolarsi. Si allontana bofonchiando in argentino degli improperi o dei rimproveri. Penso che gli abbia detto: ma perché fai questo? Ma che vuoi? Ma lasciami in pace, mi stazzoni la veste, ma che vuoi da me? Ma parla con il mio vice. E si allontana imprecando, imprecando, i papi non imprecano, si allontana borbottando in papale litania. Alle sue spalle intervengono i due preti, finora erano lì rimasti immobili, anzi il capo della sicurezza mondiale di tutti i papi dell'universo ha detto: beh, scusate, ma già gli hanno sparato a un papa proprio da quelle parti, non è che magari questo se ne va così tranquillo in mezzo alle folle, ci vorrà qualcuno che si occupa un po' di lui. Chiusa parentesi, questo gesto fa il giro del mondo, il video diventa virale. Il mondo si divide. Il giorno dopo il Papa, durante l'Angelus, chiede scusa, capisce che ha pestato una papale cacata, perché in effetti un Papa non può dare uno schiaffo a una donna. E il mondo si divide in due tronconi. addirittura Salvini fa l'imitazione con la sua fidanzata del Papa, facendo vedere che lui è buono, lui in nome del Immacolato Cuore di Maria, invece che lo schiaffo poi dà la carezza a donna. Cioè, così si fa, si accarezza la donna, le donne non si percuotono, non si picchiano. Devo dire che i due filoni ideologici che su questo fatto sono divisi, da una parte c'è il pensiero conservatore lefreviano che dice: assolutamente, ha fatto bene, il Papa ha impugnato la legittima difesa. È un po' la tesi di Libero oggi, vedete, abbiamo fatto una legge sulla legittima difesa, anche il Papa, cittadino vaticano in territorio vaticano, però l'applica. Questa donna è entrata nella sfera della sua privatezza e lui la percuote con l'unica arma che ha a disposizione, le sue manone argentine. Altri invece sono profondamente colpiti, tutte quelle signore, quelle signorine che con il tè dalla loro terrazza dicevano: oh, Papa Francesco, Papa Checco, ho sentito chiamarlo Papa Checco da una signora della bella aristocrazia borghese romana, Papa Checco, Papa Checco. Ecco, Papa Checco, lo vedete, voi pensate che fosse il sublime esempio di ogni apertura, del rispetto di ogni differenza, di ogni tolleranza, ha menato una donna a tutti gli effetti. E su questo il mondo si divide, naturalmente. Da una parte ci si domanda come mai il Papa ha compiuto un gesto così poco politicamente corretto nel mettere le mani addosso a una donna, d'altra parte si dice il Papa ha dimostrato che in effetti, al di là della scorza buonista che deve comunque ostentare, è un uomo tutto d'un pezzo. E se la donna peccatrice, colei che pestò il capo al serpente, ma che comunque secondo San Bernardino altro non è che un contenitore di vermi, un verminaio da cui bisogna tenersi lontani perché è l'apertura verso le porte dell'inferno, la fonte di ogni tentazione, quindi è stata giustamente percorsa del suo gesto irrituale di toccare il Papa. Ma Cristo perdonò la donna amerroissa, cioè che aveva un'emorragia, e la toccò compiendo un gesto trasgressivo secondo quello che era il tabù ebraico di non toccare la donna con il ciclo. La toccò e quindi dimostrò che lui poteva toccare anche la donna contaminata. Perché il Papa ha menato questa donna? 800240024. Questo diventa un sondaggio. Il mondo è diviso sul papagno, lo schiaffettino punitivo che il Santo Padre ha assestato sulle mani di una fedele asiatica che lo ha strattonato con prepotenza verso di sé. Il Papa si è poi scusato per la sua reazione, ma resta inquietante il video del papagno che è diventato virale e che è stato commentato e parodiato anche da personaggi politici. Noi vogliamo sondare nel nostro pubblico quale sia l'impressione che ha suscitato un gesto così irrituale. Alcuni lo hanno giudicato eccessivo e poco cristiano, altri lo hanno pienamente giustificato. Chiamate all'800240024 e diteci cosa pensate del papagno, scegliendo uno di questi schieramenti. 1. Papagnisti legittimisti. Il Santo Padre ha fatto bene a reagire. In fondo ha applicato la legge della legittima difesa. È stata la fedele a fargli violenza per prima. 2. Antipapisti femministi. La sintesi del gesto è che il Papa ha picchiato una donna. Le donne non si toccano nemmeno con un fiore, non ci sono giustificazioni. 3. Astensionisti attendisti. Non possiamo giudicare la reazione del Papa, finché non si capisce cosa la fedele gli abbia detto mentre lo ha strattonato. Abbiamo subito Giovanni che vuole rispondere al nostro sondaggio. Giovanni, qual è la sua posizione? Assolutamente d'accordo con il Papa doveva farlo, ma avete visto le immagini? Buongiorno, cioè sì, è stato strattonato, quindi c'è anche la sciatica. Vabbè, c'è qualcosa che gli fa male. Chiaro, l'artrosi, vabbè, c'ha l'artrosi. Quindi stringendo la mano con l'artrosi può avergli fatto anche male, c'è una smorfia di dolore. Stringete la mano a una persona con l'artrosi, strilla. Il Papa non ha strillato, ha sofferto in silenzio, ma non ha sopportato più di tanto questa ingerenza nel suo sacro corpo, penso. Quindi lei è papagnista legittimista? Assolutamente sì, assolutamente. Non doveva neanche scusarsi, dottore. Davvero, non doveva neanche scusarsi. Beh, sa, alla fine ha capito che tutto il mondo è diviso, molte donne scenderanno in piazza se non ora quando, anche il Papa ci picchia, cose del genere, capito? Vedrete che questa signora asiatica diventerà un'eroina, andrà in giro in tutti i talk show mostrando la mano ferita dal papagno, perché non è detto che lei non abbia avuto conseguenze, sono schiaffoni forti, c'ha delle manone, il Papa mica scherza, è abituato a domare i cavalli nella pampa, figuriamoci, balla il tango come niente, capito? Quindi sicuramente. Lei è credente, Giovanni? Assolutamente sì, sono credente e anche quasi un po' praticante, le dirò. Vabbè, quello sono fatti suoi, non importa. Comunque, quindi lei da credente dice, giustamente, il Papa non si tocca, questo è un principio. Una volta era intangibile, andava sulla sedia gestatore e non poteva nemmeno calpestare per terra, lo tenevano sollevato. Pensi un po' quanto era la sacralità del vicario di Cristo in terra. Oggi chiunque gli può stringere la mano, gli può scrivere un selfie, farsi un selfie insieme, però strattonargli e stringergli la mano che gli fa male, questo no. Diego, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti. Qual è la sua posizione? Ma guardi, io penso che un Papa che si concede, che si dà, come questo che abbiamo qui adesso, non è mai avvenuto negli ultimi secoli, ed è una conseguenza naturale di un uomo che si dedica e che si dà alle persone. Quello che è accaduto è una reazione normale che lo rende più umano. Gli certo. Altri, quelli che c'è. Sì, no, dicevo, nessuno ha considerato, adesso sto vedendo le foto, che praticamente la donna gli ha messo le mani addosso più o meno nel punto esatto dove hanno sparato a Wojtyła, era esattamente lì. Diciamo, c'è una sorta di fatalità, di incontro, di linee sottile in quel posto lì. Quello è il posto dove più o meno hanno sparato l'altro Papa. Ora, che ci sia un po' di titubanza nel lasciarsi stringere le mani, prendere le mani e tirare a sé in maniera molto violenta al Papa, può essere. Lei dice il Papa si concede, quindi chi si concede deve tenere conto che la folla può a un certo punto pretendere anche di più. La sicurezza vaticana ha sempre creato un protocollo, una rete di protezione, e non consentiva proprio di essere avvicinati più di tanto. Papa Francesco ha scelto un percorso diverso che l'ha reso più umano, l'ha reso molto più vicino alle persone, e questa è una conseguenza che può ma allora perché il papagno? E ma allora perché il papagno? Ma perché è una reazione fisiologica e umana, che anche se un papa comunque è un uomo, e l'ha portato in un attimo a fargli un qualcosa, gli ha fatto del male, l'ha fatto soffrire, si è sentito un attimo in imbarazzo, tirato. C'è anche da dire che una donna, tutto sommato, che le mette le mani addosso a un prete, un po' di imbarazzo può anche causare, dice, ma levami le mani di dosso, cioè in fondo è sempre, diciamo, Eva tentatrice, c'è anche questo dietro, nessuno lo considera, ma è una donna che mette le mani addosso, pelle contro pelle, a un uomo di chiesa, anche il più eccelso degli uomini di chiesa, non è un bel gesto farlo in pubblico, nessuno lo farebbe. Però lei non si domanda cosa avesse da dire questa donna così disperata, perché era disperato. Noi abbiamo provato più volte a interpretare quel grido di dolore, ve lo facciamo sentire anche rallentato, vediamo se qualcuno tra voi riesce ad avere strumenti più raffinati del nostro interprete, che ha provato in tutte le maniere, conoscendo a menadito sia il cinese che l'inglese o tutte le lingue orientali, di decifrarlo. È uscito fuori soltanto, forse, un tentativo abortito di chiedere aiuto, perlomeno interesse, e la parola money, quindi probabilmente anche una richiesta di denaro, forse, non si sa, questa è un'ipotesi. Se qualcuno riesce a interpretare ancora di più questo grido di dolore, che nessuno al mondo in questo momento, da tutto il mondo ci sono stati commenti, abbiamo guardato la stampa cinese, coreana, giapponese, asiatica in generale, tutta la stampa statunitense e tutta la stampa che viene dai paesi dell'Africa, nessuno ha interpretato quello che dice la donna. Strano che nessuno abbia domandato alla donna, a un attimo dopo questo incidente, nessuno si è avvicinato a identificarla, non c'era un carabiniero, un poliziotto, una guardia svizzera, un alabardiere, nessuno per dire ma tu che volevi dal Papa. Ma in altri tempi l'avrebbe come minimo impacchettata, interrogata, perquisita, capire chi la mandava, e se fosse stata armata, se fosse stato un attentato, se avesse avuto un anello con quelli lì che esistono nella Spectre, con un pungiglione avvelenato, e avesse voluto pungere il Papa, poteva fare qualunque cosa. Metti caso, una guerriera ninja, i ninja hanno delle cose terribili, poteva lanciargli, ne so, un dardo avvelenato, qualcosa del genere. Paola, buongiorno. Buongiorno. La sua ipotesi, da che parte sta innanzitutto in questo sondaggio? Io sto dalla parte del Papa, sicuramente. Ha fatto bene, sì. Prevale il papagnismo, legittimismo. Diciamo che sono d'accordissimo con l'ascoltatore che mi ha preceduto, era esattamente quello che volevo dire e quello che hai detto tu in questo momento. Non riesco a capire come nessuno l'abbia fermata, identificata e chiesto cosa effettivamente volesse. Non è tanto il problema che il Papa abbia reagito, perché poi ha avuto una smorfia di dolore e quindi è stata una reazione assolutamente naturale ed umana. Non sappiamo se l'ha punto, non sappiamo se aveva l'anello con il pungiglione, mica lo dicono queste cose. Magari l'ha colpito, gli hanno dato un antidoto e si è salvato appena per caso. Facciamo un'ipotesi, non è che voglio azzardare. Potrebbe essere. La realtà supera la fantasia molto spesso. Anche perché la donna si fa il segno della croce mentre arriva il Papa. Abbiamo guardato il video a rallentatore nella fase precedente. Diciamo, il complice prete accanto a lei filma tutto e anche l'altra signora dall'altra parte. Potrebbero essere tutti e tre assieme, o forse no. Lei si fa il segno della croce come se stesse entrando in un momento epico prima di fare un attentato. L'attentatore comunque si raccomanda al suo Dio sempre, capito, di qualunque parte sia, perché sa che farà un gesto da cui potrebbe non uscire vivo. Quindi anche questo ci fa pensare e riflettere. È d'accordo, Paola? Sì, anch'io ho visto decine di volte il video e ho avuto la stessa impressione, come se fosse tutto strutturato in qualche maniera. Probabilmente sono congetture, però comunque sono da parte del Papa e io avrei avuto la stessa reazione, uomo, donna, grande, piccolo. Le posso dire un altro particolare inquietante? L'unica persona che ha l'apparenza di essere un uomo di scorta, che non è un prete, perché dietro ci sono due preti, i preti che possono fare lì con la tonaca, a meno che da sotto la tonaca tirano fuori un Kalashnikov. L'unico persona, cioè l'unico laico, ha una borsetta in mano, cioè la mano sinistra c'ha una cartellina, quelle cartelline di pelle antiche così. A meno che lì dentro c'ha degli strumenti di offesa terribili, non è la scorta ha le mani libere, addirittura hanno l'auricolare, sono sempre pronti a intervenire. Quindi il Papa era totalmente solo in balia della folla e anche questo ci fa pensare. C'è un complotto dietro? Erano tutti d'accordo? Non si sa. Francesco, buongiorno. Buongiorno caro Nicoletti, ma io guardi, a Gesù gli hanno messo i chiodi e non si è lamentato. Non ho capito perché il Papa si sia arrabbiato solo per una stretta di mano, perché soffre di questa malattia. Lei lo sa, ha detto una cosa sacrosanta però. Tutti qua, tutti parliamo, viviamo, incarniamo, seguiamo, facciamo la Via Crucis, queste cose qua. Però è vero, ci sono messi i chiodi e è stato zitto. Questo per una toccatina alla mano subito ha strillato. Anche questo è un dato è un dato che però a questo punto la colloca nell'antipapismo. Lei dice si è lamentato, quindi è d'accordo nella seconda posizione? Io sono un cattolico. Diciamo che voglio bene a Francesco, mi chiamo lo stesso come lui, però non capisco quel gesto, forse da giustificare, ma io non lo giustifico. Cioè doveva appoggiare l'altra mano, dire stringi questa che mi fa ancora più male. No, non dico questo, ma dammi un calcio sul costato, queste cose qua doveva dire. Doveva dire, santo Dio, guarda che mi stai facendo male. Non può nominare il nome di Dio in vano, non può dirlo. Santo Dio non si può dire, Papa. Può dire, sorella, mi stai facendo del male, ma lo offro per i peccati del mondo. Questo dicono i martiri. Così. A me mi è sembrato un gesto fuori luogo per una personalità come lui. Certo, si è lasciato andare un attimo. Diciamo la seconda volta. Una volta accadde in Messico. Lo spintonavano e casca addosso, poverino, un ragazzo che sta sulla sedia a rotelle. Gli ha detto, sta attento. E lui dice, ma attento, io sto qui sulla sedia a rotelle, tu mi caschi addosso. E anche una volta non fu bellissimo. E anche quando qualcuno parlò degli insulti alla mamma, dice, a me uno mi insulta la mamma, gli do uno schiaffo, dimostrando una natura piuttosto incline al gesto di mano, che non dovrebbe essere, diciamo, nel retaggio di un papa. Ci fermiamo un istante, poi ci abbiamo Antonio in attesa. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24, la passione si sente anche in podcast. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Ciao, sono io, l'uccellino di Uliveto. Vi porto gli auguri di buone feste, piene di salute, serenità e tanto amore da Uliveto e Rocchetta, le vostre acque della salute. Mille auguri! Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Da MediaWorld sono iniziati i mega sconti, come TV Sony 4K 55 pollici con uno sconto del 30% a €797,30. Fino all'8 gennaio scopri tanti altri mega sconti in negozi online. MediaWorld, fatto apposta per me. Melog. Chiamate all'800 24 0024 e diteci cosa pensate del papagno, scegliendo uno di questi schieramenti. 1. Papagnisti legittimisti. Il Santo Padre ha fatto bene a reagire. In fondo ha applicato la legge della legittima difesa. È stata la fedele a fargli violenza per prima. 2. Antipapisti femministi. La sintesi del gesto è che il Papa ha picchiato una donna. Le donne non si toccano nemmeno con un fiore, non ci sono giustificazioni. 3. Astensionisti attendisti. Non possiamo giudicare la reazione del Papa, finché non si capisce cosa la fedele gli abbia detto mentre lo ha strattonato. Vi posso dare una prima indicazione su quello che è il sentire del nostro pubblico rispetto al papagno, lo schiaffo papale nella mano della signora che lo ha strattonato. Diciamo che c'è una prevalenza di papagnisti legittimisti. Nessuno o pochissime reazioni sull'antipapista femminista, nessuno si preoccupa del fatto che abbia picchiato una donna, se non ora quando non vale per il Papa. Pochi sono interessati all'astensionismo-attendismo, cioè capire che volesse questa donna di così grave, di così terribile, con il preludio di un segno della croce per fare un gesto che in fondo è così ardito di strattonare il Papa. È qualcosa di molto grave, avesse avuto una ragione gravissima. Ho scoperto che c'è una bomba atomica che sta per partire dal Nord Corea. Capito? Poteva dire questo magari. Sta partendo la bomba atomica dal Nord Corea, sta per colpire la cupola di San Pietro. Metti quella a dire questo, vale la pena strattonare un Papa? Lui non l'ha mica ascoltata. E magari fra un po' arriva il missile e noi non sappiamo perché. Esiste invece una corrente che noi non avevamo valutato, di quelli che paragonano, fanno una collazione tra quella che è la sofferenza nella passione di Cristo e il Papa. Dice: Cristo si è beccato i chiodi, il Papa almeno una strettina di mano poteva sopportarla. E molti sottolineano il fatto che un buon cristiano porge l'altra guancia, in questo caso da porgere l'altra mano e dire: stringe anche questa, così soffrirò su tutte e due le mani, e se vuoi pestami pure i piedi, e se vuoi dammi pure un calcio sulle costole. Antonio, buongiorno. In quale posizione lei si colloca? Numero due, antipapista femminista. Oh, è il primo, finalmente. Diciamo che nessuno ha fatto caso, che metta caso che lei, Antonio, io, Gianluca, dessi uno schiaffo forte sulla mano di una persona che magari in metropolitana mi prende per il cappotto perché ha qualcosa da dirmi. Sarei citato in tutte le manifestazioni di piazza, sarei perseguitato, sarei denunciato. Il Papa, invece, nessuno nota che in fondo... preso e strapolato il gesto, il Papa ha picchiato una donna a tutti gli effetti. Ecco, e io mi conferma questo ultimo episodio. A mio avviso un atteggiamento fortemente misogino da parte del Papa, perché innanzitutto se facciamo un confronto, certo non paragonabile, con Cristo quando lui cammina trionfante per Gerusalemme, viene strattonato, preso per le vesti perché tutti lo volevano toccare. Dalla donna con l'emorragia, ma l'ho citato, è un fatto epico. Sì, arrivare poi. È il gesto più trasgressivo del cristianesimo rispetto alla tradizione ebraica. Ecco, tocca la donna mestruata, che è una cosa impossibile. Cristo, diciamo così, tutti vogliono una parte di lui, diciamo così, questo dovrebbe essere una prerogativa di un rappresentante di Cristo. L'altro aspetto che mi viene in mente di queste donne, che secondo me, io ho sentito la registrazione, è una richiesta di denaro. Ah, aspetta, gliela faccio risentire, gliela faccio risentire un attimo, quella rallentata, sì, la sentiamo. Anche sì, noi, anche diciamo, il nostro staff di interpreti aveva azzardato questa tesi. Abbiamo messo delle persone che sanno coreano, cinese, giapponese, varie lingue orientali e l'inglese. La parola money viene fuori, ascolti anche lei. Batte cassa, sembra che la signora orientale batta cassa, chiede soldi. Sono donne sincere. E per quello si è incazzato il Papa, cioè come viene a chiedere i soldi? Io i soldi li prendo, sì, non li chiedo. Sì, però il fatto stesso che si fa prima il segno della croce significa che sono in buona fede, sono delle donne semplici. Beh, cioè, anche un attentatore si fa il segno della croce prima di buttare la bomba. Sì, ma queste non erano armate. Loro fanno questo segno e io le paragono alla Maddalena quando utilizza dei preziosi unguenti per lavare i piedi di Cristo e tutti quanti gli vanno addosso perché diceva come tu sciupi e invece quindi lei fa... vorrebbe quasi azzardare il tentativo di un massaggio romantico, no? No, l'unguenti. Per dirle che erano in buona fede e che loro credevano nel Papa come una figura, diciamo così, cioè ritorno all'antico gesto del fedele che vuole toccare il corpo santo in casi, diciamo, di esposizione di corpi di santi morti in odore punto di santità, andando addirittura a intingere delle pezzuole nei liquami del cadavere per portare a casa la grazia che quel corpo aveva possibilità di contaminare perché era stato attraversato dalla grazia, quindi è un gesto mistico estremo. E il Papa ha perso una grande occasione, perché se lui si fosse fermato lì e dargli una carezza e tutti avrebbero parlato male di questa donna che diciamo gli aveva fatto un gesto brutale e lui si rivolgeva con una carezza. No, lui poteva dirgli, infinita. C'era quell'altro signore vicino con la cartellina che lo segue, quella è probabilmente piena di dobloni d'oro, sicuramente dagliene una manciata a lei, così almeno la fai contenta, se ha bisogno di una. Certo, avrebbe dovuto. Pensi che bel gesto. Sì, una grande occasione. Una grande occasione. Biagio. Buongiorno. Come la pensa? Senta, io premetto che sono un cattolico. Tutti siamo cattolici, battezzati. Il gesto che ha fatto il Papa è un gesto estremamente grave. Sì, perché? E non ci sono giustificazioni né scuse. L'unica cosa da fare è il Papa si vada, diciamo, a confessare e chiede perdono. Ma chi si confessa al Papa? All'altro Papa? Deve andare da Ratzinger a confessarci, un Papa dall'altro Papa? Non lo so. Eh sì, penso da Ratzinger. La mia posizione è questa. Quindi al di là di tutte le chiacchiere. Quindi è un peccato. Sentito, ma qual è il peccato? È un fatto estremamente grave. Ma quale comandamento, diciamo, ha infranto dando lo schiaffo alla signora? Il comandamento è non c'è. Non dice di picchiare la donna asiatica. Il comandamento non ci hanno pensato. Lo ha detto molto molto chiaramente, però insomma non è giustificato, non ci sono scuse né giustificazioni. Sì, è stato molto brutto. Poi quel gesto di stizza quando si è allontanato lì per lì, però allontanarla, poi dirgli scusa, ma mi hai fatto male, dimmi. Non l'ho gradito nella le faccio un esempio, le capiterà guarda. Le faccio un esempio, mi viene in mente in questo momento, vediamo se secondo lei in metropolitana capita che uno ti pesta un piede, ti fa un male dalla Madonna, lì per lì ti arrabbi, dice ma guarda tu sta attento, poi magari dice scusi tanto, sa, ma mi aveva fatto male, e uno concilia, poteva fare la stessa cosa, dice guarda mi hai stretto la mano, proprio qui c'ho l'artrite, scusa dimmi cosa volevi dirmi, no? Ma le folli, non l'avrebbe fatto una cosa del genere. Pensi, ancora lo stanno rimandando in televisione, in questo momento ho davanti Sky, sta rimandando l'episodio, c'è il Papa che protende la mano, ve lo dico in diretta, va avanti, tutti lo toccano, ecco lo sta trascinando, la signora lo trascina, il prete imperterrito continua a fare il video e si allontana arrabbiatissimo, ecco sarei visto adesso su Sky TG24, in diretta. Ci voleva un servizio d'ordine per evitare questo. Non c'è solo un signore col cappotto con la valigetta. Io ribadisco soltanto una cosa, che Gesù, che ha camminato insomma tra le folle immense, non avrebbe fatto un gesto del genere. Vabbè, rispetto a oggi erano quattro gatti alla fine, quanta gente vuole che c'era in Palestina? No, non erano quattro gatti. Vabbè, ma 30-40 persone, quanti è? No, 50? No, si è trovato in situazioni insomma con i con la partecipazione di immense folli. No? Sì, ma erano più abituati, capito, al tempo, al contatto fisico. Oggi siamo un po' dimenticati cosa sia il contatto fisico, l'afferrare della folla, capito. Va bene, comunque siamo d'accordo. Sentiamo Andrea. Andrea, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Il suo punto di vista. Andrea. Allora, io avevo preso troppo sul serio, diciamo, questa trasmissione qua, quindi ero un po' arrabbiato sul taglio. Poi capisco che è anche un po' ironica. Eccetera. No, ironica, sto trattandolo seriamente. Perché fosse stata seria l'avrebbe fatta arrabbiare, no, mi faccia capire. Seriamente non se ne può parlare. Sì, perché no. Le sue conclusioni del dardo, magari il veleno. Faccio delle ipotesi. Scusi. Ma sono ipotesi che non esistono. Cioè, il fatto è che. Scusi, abbiamo avuto delle spie avvelenate col. Vabbè. Anche io ho scritto due libri e li ho dati anche a. Con veleno a lento rilascio. Sì, ecco. No, ma quel che voglio dire io è questo. Che comunque l'episodio è che la donna. Diciamo, voleva l'attenzione del Papa, l'ha stratonato per averla, il Papa si è svincolato e ha dato una pacchettina sulla mano. Bene, questo è il fatto. Volevo dire un'altra cosa per rispondere alle sue domande. Il Papa chi si confessa? Qualunque prete, perché non è che deve avere un... Sì, è chiaro, l'ho detto per il gusto del parossismo, capito? Immagino che tornato a San Pietro, tornando a casa, dice Madonna che cazzata che ho fatto, ma perché ho fatto così? E chi va a chiamare? Chiama l'altro Papa, chiama Ratzinger, dice senti Ratzinger, mi sono lasciato andare, ho dato uno schiaffo a una cinese che passava lì, dico mamma mia, che l'altro dice ma perché l'hai fatto? Ma sei matto? Potevi stare zitto, cioè, adesso che faccio? Beh vieni qua ti confessi, pensavo così che potesse accadere. Antonio, buongiorno. Buongiorno, semplicemente volevo dire, ma questa persona... Non ha tentato eventualmente di sottrarre semplicemente l'anello al Papa? Oh, finalmente un'ipotesi originale, Antonio. In effetti sto riguardando in questo momento al rallentatore. È proprio la mano con l'anello papale, quell'anellone di oro massiccio con pietre preziosissime. Infatti tiene, guardi, con la mano sinistra lo tiene al polso, con la mano destra sembra quasi che voglia sfilargli l'anello. Come magari... fanno quelli che sottraggono l'orologio Rolex che sono esperti. Ma Rolex il Papa lo tiene sulla mano sinistra, infatti era sull'altra mano. E l'anello? Quindi questa qui per me ha tentato soltanto semplicemente di sottrarre l'anello al Papa. Si era insalivata un po' le mani, gli ha spalmato di saliva il dito e ha provato a sfilargli l'anello. Con la scusa di baciargli la mano gli ha insalivato per sfilargli l'anello. Esattamente. Questa è un'altra. Ecco perché c'ho bisogno di soldi. Allora rimane. Ho bisogno di soldi, dammi l'anello. Gli ha provato a sfilare l'anello. Esattamente. Ah. E quello non è un anello che vale poco. Ecco perché vale si è arrabbiato. Tantissimo e ancora di più perché era del Papa. E lei pensi che quando il Papa muore lo rompono con l'anello, lo spezzano perché nessun altro se lo può mettere. Quindi pensi la donna vuole fregargli l'anello. Altra ipotesi. Antonio apre una nuova inquietante prospettiva. In realtà la signora voleva rubare l'anello del Papa, ma spinta dal bisogno naturalmente. Ci fermiamo ancora un istante. Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020, The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. Melog. Mie care signore, avete il mio permesso di baciare la mano reale, quella che preferite, per prima. Quale gentilezza e generosità! Sire, avete visto che cos'ha? No, smettila di fischiarmi nell'orecchio. Sì, sire! Miss, hai sibilato il tuo ultimo sibilo! Questo è un documento che potrebbe dare delle prove di un precedente a cui si è ispirata la signora asiatica, che è stata anche lei bambino, e anche lei avrà visto Robin Hood della Disney, in cui Robin Hood a un certo punto, per rubare gli anelli a Re Giovanni, si traveste da chiromante, lo ferma lungo la strada, dice fammi leggere la mano e gli sfila gli anelli. Può essere che la signora asiatica abbia visto la bambina Robin Hood e bisognosa di soldi, ma sicuramente per sfamare i suoi tanti bambini, non lo so, per qualche giusta causa, ha cercato di sfilare l'anello al Papa, che è la nuova ipotesi che viene da un nostro ascoltatore. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Ride, no. È una cosa, mi ride, qua si sta no, spaccando, visto, è un segnale dell'apocalisse, ma si rende conto? Gog e Magog si incontreranno certo nella valle di Armageddon, hai capito? No. In un certo senso il Papa ride. Questo Papa qua, ma sul quale ho molti dubbi. Aspetta Elisabetta, ferma un attimo, prima che vai avanti, ti faccio una domanda. Fossi stata tu la signora che strattona al Papa e avessi preso lo schiaffo papale, oggi come ti sentiresti? Non sarei andata in San Pietro a rendere omaggio a questo Papa, per esempio. Perché? Perché è un Papa che all'inizio, io sono cattolica, però valuto le situazioni. Allora, questo Papa all'inizio... Tu sei sottilmente di corrente merovingia, lo intuisco. Io sono metà veneziana e metà genovese. Ah, vabbè. Ecco. C'entra niente. Sì. E come dire, questo Papa all'inizio... Ma perché parli con l'accento francese allora? Stai simulando? No. No, io la R, sì, lo so. Sì, sai. Ma anche te stai simulando una sorta di accento parigino. Dai, dimmi no, perché. Ma io la R, mi riconoscono tutti della voce a causa della R che ho io. Sì. Ma io sono come dire, veneto soprattutto, no? Vabbè, allora dai, arriva al punto. Dunque, allora, questo Papa all'inizio aveva fatto una grande campagna, telefono al Papa, vi telefono al Papa, mandava auguri a tutti, eccetera, ok. Quindi cercava visibilità subito, ecco. Poi a questo punto, allora, io mi chiedo, forse questa, diciamo, enfasi... Tanto per cominciare vorrei sapere cosa gli ha detto questa donna, uno. È un mistero, se vuoi ti facciamo sentire la registrazione, no. Non si capisce. Qualcuno allora, dice il Papa chiede... ha fatto il contrario, come posso dire, ha restituito alla donna l'oltraggio fatto secoli fa, non ricordo bene quando, da un certo Sciara Colonna che col guanto ferrato... Bonifacio VIII, lo schiaffo di Anagni. Lo schiaffo di Anagni, un episodio terribile. Lo schiaffo di Anagni, certo, sì, quello... Ecco. Era ridata una donna, scusi, lì era un uomo che gli aveva dato lo schiaffo. Gli era dato. E in questo caso con il guanto chiodato. Comunque, ha dato uno schiaffo. Ma pensate questo, che questo Papa allora deve mettere d'accordo se stesso con quello che vuole fare. Quindi vuole la massima visibilità, vuole occuparsi di politica non stop, vuole essere eccetera, ok. Benissimo, allora accetti anche di essere avvicinato da una donna che non si sa che accidenti gli ha detto. Ecco. Spinta dal bisogno, probabilmente. Dalla disperazione. Ma mi sto anche chiedendo l'origine di questo Papa, che è un Papa gesuita, ok? Vabbè, stava troppo lunga, ho capito, Elisabetta, dai, la fai lunga. Sei d'accordo, Noco, che non doveva farlo? Gesuita, lo fa? Era il padre Arpa, hai presente, no, chi era? Sì, ho capito, adesso, sa, la storia del Papa... Ho dei dubbi, cos'era, uno della Plaza de Mayo, magari, forse? Ma una cosa complicatissima che si dice che non abbia salvato i suoi seminaristi che poi hanno ammazzato l'antirate, cioè tutta una storia dietro, però adesso... Non è che il papagno alla signora è la chiave di lettura di tutto il passato del Papa, sono fatti suoi, non mi riguarda me, riguarda i papisti. Nicola, buongiorno, sentiamo Nicola. Buongiorno a voi. Il suo punto di vista. Beh, io introduco un elemento, non vorrei dire inquietante, ma sicuramente interessante, cioè le prime posizioni, cioè proprio a ridosso della balaustra, della staccionata, non sono casuali. Si concordano tendenzialmente, almeno era così con i papi precedenti. Non credo in questi casi perché era una cosa, questa era folla, sarà lì ammassata, diciamo. No, lì davanti no, sì. Glielo dico perché io ho partecipato anni fa a un incontro dello stesso tipo, un passaggio del Papa. Ma questo aumenta l'inquietudine, quindi... Si sa esattamente, erano dei VIP. È stato concordato, il nostro gruppo è stato concordato con il personale di sicurezza, altrimenti lì non ci facevano mettere. Quindi la sicurezza sapeva che questa donna faceva parte di un gruppo, diciamo, controllato. Beh, questo poi io adesso non lo so, ma secondo me la sua posizione non era casuale. Sicuramente avrà chiesto a qualcuno di potersi avvicinare. Quindi complotto. E qualcuno gliel'ha consentito. Lei sta ipotizzando un complotto. Ma io sto ipotizzando che qualcuno le avrà probabilmente agevolato la vicinanza, anche perché... Quindi alcune correnti, lei sta dicendo che alcune correnti scismatiche all'interno della Chiesa hanno organizzato questo complotto armando la mano della signora asiatica. Questo non lo so, però qualcuno sicuramente le ha consentito di stare lì. Infatti c'è un prete che stava filmando tutto, che filmava tutto. E di avvicinare il Papa, perché si sapeva che lì il Papa si sarebbe... No, a me piacerebbe avere la registrazione degli smartphone della signora con la permanentina e del prete, che hanno ripreso tutto a distanza di 20 centimetri. Non è stato casuale. E sanno anche cosa ha detto la donna, il grido della donna, che prima o poi verrà fuori, certo. Non è che si nasconde. Certo, cioè, non è stato casuale. Don Roberto, l'ultimo minuto, un sacerdote, finalmente interviene un sacerdote. Il suo punto di vista, da uomo di chiesa. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Guardi, io le dico quello che penso, cioè secondo me si stanno facendo un sacco di congetture adesso attorno a questo fatto. Quando si è Papa ci si espone anche alle congetture. Certamente, però riguardiamo bene la scena, quest'uomo è stato afferrato, un uomo anziano che ha delle difficoltà motorie, ha anche i suoi dolori, le sue artrosi, è stato afferrato con molta veemenza a parte questa donna, ha avuto una reazione veramente umana, di dolore e di, insomma, si è voluto liberare di un possibile pericolo, anche perché questa donna poteva buttarlo per terra. Cioè, sì, ma lui ha perso l'equilibrio, il padre è leggermente claudicante, ha dei problemi, lui ha perso l'equilibrio. Se lei, essendo orientale, metta caso fosse stata esperta in arti marziali, tirava la presa e con una sorta di colpo della tigre lo poteva sbattere per terra, magari anche strangolarlo, ucciderlo, poteva fare qualunque cosa. Le cose sono molto semplici, quando c'è una persona così esposta come il Papa, è chiaro che i pericoli sono enormi, secondo me, come già detto qualcuno, essendo lui una persona, diciamo, molto visibile anche con il pubblico. Però mi scusi, Don Roberto, visto che lei è sacerdote, conosce meglio di me, ha più fresca la dottrina, molti hanno azzardato anche l'ipotesi, ma Cristo gli hanno messo i chiodi, il Papa poteva sopportare una strettina anche se faceva male. Allora, lo dicono, lo dicono questa cosa, relata a Cristo, ma sono d'accordo, però anche Cristo, per esempio, nei Vangeli, se andiamo proprio allora ad analizzare tutto, ha avuto a volte dei comportamenti che non erano ben capitati. Al Tempio si incazza con la frusta, prende a frustate tutti. Appunto, cioè fa capire che anche lui ha un certo carattere e quando doveva chiamare le cose per nome... Quando ci vuole, ci vuole, certo. Allora, voglio dire, adesso, che poi da questo, ho letto oggi dei commenti su internet che mi hanno fatto proprio cadere le braccia, il Papa dell'accoglienza, il Papa invece, ecco che è un Papa violento, insomma, da questo a dire... Però ci sta, lei capisce, Don Roberto, no, non può esserci un giudizio sereno nei confronti di un Papa quando fa un gesto così poco rituale, io capisco, l'umano che sta sotto quella figura importante, è logico che è un signore anziano, con i suoi problemi fisici, uno gli tira proprio dove gli fa male la mano, che probabilmente, e dice, mannaggia, stavo per cascare, lui stava per cadere, e se cadeva batte la testa su quella transenna, che sono di legno duro, questo è il punto, rinforzate col ferro, cioè si faceva male veramente, altro che storia. Va bene, grazie Don Roberto. Angelo, sentiamo Angelo. Sì, buongiorno Nicoletti, mi senta, perché non vi fate voi promotori per la ricerca di questa donna e farla venire da voi? Quello che meraviglio è che l'intelligence vaticana, che è così attenta e così pronta a intervenire, non l'abbia identificata. Mi sembra strano che nessuno abbia identificato una persona che comunque crea un disagio di respiro internazionale al Papa. Strano che nessuno l'abbia identificata. Si saprebbe magari da cosa era spinta, quale impulso, quale necessità, quale bisogno. Giusto quello che lei dice, giusto, giustissimo. Sì, ma non solo, quello che è avvenuto umanamente è passabile, purché la richiesta di perdono abbia la conclusione sua logica, cioè avere la persona dinanzi per capire che cosa volesse. Infatti io, se fossi non sarò mai il Papa, se fossi il Papa sarei curioso, sono andato un attimo fuori di testa, può starci, però chissà che voleva dirmi questa, ricercatela, portatemela davanti e sentiamo che bisogno aveva. Innanzitutto mi affaccio con lei a San Pietro e tutti vedono che ci siamo riconciliati e torno a essere buono, e poi vediamo se c'è un problema, glielo risolviamo, che costa, magari c'ha 7 bambini, li mandiamo all'asilo dalle suore, lasciamo perdere. Guido, buongiorno. Buongiorno. La sento male. Io sono antica, No, c'è niente, non si capisce niente. Guido dice: ateo, il Papa ha fatto bene, se no una picchia va picchiata, per dire sta cazzata, è meglio che il segnale telefonico si sia interrotto. Comunque abbiamo fatto una disanima molto originale, grazie al pubblico, su quello che è il gesto clamoroso del giorno, il Papa che alza le mani su una donna che l'aveva afferrato. Domani faremo cose più serie.